se noi guardiamo l'economia degli Stati Uniti rispetto a quella di altri paesi, ci accorgiamo che le principali aziende militari mondiali sono proprio basate negli Stati Uniti. E queste aziende, nel periodo che è andato dal 2001 all'anno scorso, 2021, hanno avuto fortissimi introiti da parte del Ministero, appunto, della Difesa americano per acquisti di armamenti che sono poi stati inviati o utilizzati nelle guerre in Afghanistan e in Iraq. Questi introiti sicuri hanno portato praticamente le maggiori aziende, parlo della Lockheed Martin, parlo della Raytheon, della Northrop Grumman, eccetera, eccetera, hanno portato le maggiori aziende ad avere un fortissimo incremento del valore delle proprie azioni in borsa. Sono quelle che sono andate meglio, diciamo, in questi 20 anni, che hanno avuto i maggiori incrementi. A questo punto la guerra in Afghanistan non c'è più, la guerra in Iraq non c'è più, e c'è la necessità di trovare nuove tensioni, e l'occasione d'oro è proprio questa, cioè è la questione dell'Ucraina. Questione che è stata preparata da anni, non la guerra, non c'era certamente magari nemmeno il pensiero di una possibile invasione da parte della Russia nell'Ucraina, ma la tensione, e questo è il punto, perché gli armamenti si vendono non in base soltanto alle guerre, ma alla percezione della tensione che c'è nel mondo. Bene, la tensione è stata creata da anni in Ucraina, con gli interventi da parte dell'amministrazione americana, sia nel decidere esponenti politici, sia nel finanziarli, sia soprattutto anche nel mandare aiuti militari in Ucraina, un paese che dovrà essere neutrale. Di fatto gli Stati Uniti dal 2014 al 2020, i dati ufficiali proprio degli Stati Uniti, hanno inviato qualcosa come 5 miliardi di dollari in Ucraina, di cui 3 miliardi e 6 per aiuti militari. E questo ci dà il quadro del perché oggi, appunto, gli Stati Uniti non siano certamente così propensi a proporre una soluzione di mediazione e trattative, perché questo rappresenta per loro, soprattutto per le loro aziende militari, un grandissimo affare. Quindi mi sembra di capire che i proventi di queste aziende militari statunitensi arrivino in parte dall'export e in parte da, come dire, la spesa pubblica americana. Certamente, cioè, è proprio questo, ma il caso tipico è proprio, per esempio, l'invio di missili Javelin all'Ucraina. Missili Javelin che sono acquistati dal governo americano, che vengono inviati più o meno gratuitamente all'Ucraina con l'esigenza, appunto, di difesa, e non è un caso che proprio nei giorni scorsi Biden sia andato nell'azienda della Lockheed Martin, che è quella che produce questi missili Javelin, dicendo: voi state contribuendo all'arsenale della democrazia. Una frase che, se la dicesse il nostro Presidente della Repubblica o capo di governo, diremmo tutti che il giorno dopo ne chiederemo le dimissioni, perché nessuno pensa mai che dei missili servano come arsenale della democrazia, ma in America questa è una cosa normalissima. Ma questa spesa è fatta, appunto, dal governo degli Stati Uniti, che invieranno gratuitamente, o forse se li faranno pagare, ma credo proprio di no, perché stanno stanziando, appunto, Biden ha chiesto uno stanziamento straordinario per invii militari, appunto, gratuiti all'Ucraina. A quanto ammonta più o meno l'ordine di misura quello che gli Stati Uniti hanno speso nei conflitti precedenti, che ora deve essere ripinguato? I dati, questi sono proprio della Corte dei Conti del GAO americano, fatti sui 20 anni di guerra in Afghanistan, parlano di 2.000 miliardi di dollari, quindi una cifra enorme. L'Italia, per il conflitto, dati dai dati, appunto, che abbiamo ricavato dalle relazioni della Presidenza del Consiglio in questi anni, ha speso 8,7 miliardi di dollari per emissioni militari in Afghanistan, gli Stati Uniti 2.000 miliardi, in cui c'erano, e questo è il punto, c'erano tantissimi sistemi militari che sono stati esportati in Afghanistan, che lì sono lì, e quando gli americani se ne sono venuti via, moltissimi di questi sistemi militari sono rimasti lì, tra cui anche fucili, mitragliatori, tute, antiproiettile, giubbe, tutto quanto, cioè dai sistemi più piccoli, appunto fucili, mitragliatori, fino anche a degli aerei, no? Che alcuni pare li abbiano, elicotteri che pare li abbiano disattivati, diciamo così, no? Ma moltissimi sono questi. Nei giorni successivi al ritiro degli americani in Afghanistan abbiamo visto tutti i talebani vestiti a nuovo, con le tute praticamente americane, con in mano i fucili nuovi americani, eccetera, eccetera. 2.000 miliardi solo per la missione in Afghanistan. Penso, non ho i conti, ma credo che almeno un altro 1.000 miliardi siano serviti per la missione in Iraq.